Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono nato negli anni in cui Morini e Bettega duettavano contro l'Aston Villa e il calcio ispirava ancora un po' di passione. Crescendo, ho assistito alle punizioni calibrate dal destro di Michel Platini e ho ammirato gli interventi difensivi di Gentile e Scirea. Un misto di crudezza e lealtà sportiva sconfinata. Sono stato davanti alla TV ad osservare, inerme, nella mia incoscienza di adolescente, la violenza dell'Eisel. Ho gioito fino ad urlare in occasione della bella vittoria sull'Ajax che ha sancito la mia prima vera Coppa dei Campioni da tifoso juventino. Ho sofferto in silenzio alla condanna con retrocessione in Serie B, ma all'ascolto dei cori di sabato scorso, purtroppo ben documentati dai telegiornali, non ho potuto fare a meno di tradire un'emozione che non avevo mai provato per una partita di calcio, la vergogna. Sperando ancora di poter gioire nuovamente per un avvenimento sportivo della mia amata Juventus, senza dover più provare altre pugnalate al cuore. Francesco. Quando si vuole insultare una persona, si cerca un appiglio sui suoi presunti punti deboli, ovvero sulle caratteristiche che lo rendono meno conforme alla norma. A chi è grasso si dice ciccione, a chi è calvo pelato, a chi è slavo zingaro, a chi è nero negro. Se ci fosse un israeliano in campo, gli direbbero ebreo. Se ci fosse un cinese, gli direbbero giallo, e così via. Se non ci sono altri pretesti, si spara un generico figlio di... Quello che voglio arrivare a dire è che ogni tipo di insulto è un'intenzionale forma di discriminazione. Dietro al risalto che si dà a un negro, invece che a un figlio di... C'è una buona dose di ipocrisia, figlia di un peccato originale che ci portiamo dentro, come Occidente, dai tempi della tratta degli schiavi. E lo stesso discorso potremmo farlo per slavi ed ebrei. Con questo non voglio dire che o è tutto lecito o è tutto vietato, ma semplicemente razionalizzare il discorso e ricondurlo su binari meno approssimativi ed emotivi. Negro non è necessariamente un insulto a una razza, ma spesso solo un insulto a un individuo. Censurabile finché si vuole, ma non differente da molti altri. Gaetano. Ho appreso che in Italia nessuno è razzista, tantomeno i tifosi. Però in compenso sono molto puritani, perché in gran parte ritengono che il gesto sconsiderato del calciatore che fa la linguaccia vada punito duramente, e cioè con 40.000 persone che gli urlano negro di M, deridendolo. Non oso immaginare quale punizione gli verrà inflitta il giorno che le telecamere lo riprenderanno magari mentre calciando un corner dovesse mettersi un dito nel naso. Marco da Genova. Vorrei aggiungere un altro episodio all'attuale dibattito sul razzismo nello sport. Domenica scorsa ho assistito alla partita di basket Olimpia Milano contro Benetton Treviso. Partita ampiamente dominata dalla squadra di casa, senza una particolare animosità tra le società. Nessuna scusa per comportamenti strani e nessuna provocazione in campo. Dietro di me, un gruppo di ragazzini di 7-8 anni ha insultato i giocatori avversari per tutto il tempo. Fra le altre cose, hanno urlato loro ebrei, come fosse un insulto. Né gli adulti accompagnatori né il sottoscritto hanno detto beh, facendo passare per buono quel comportamento incredibile. Se tutti imparassimo a prendere posizioni in prima persona, forse le cose non arriverebbero ai livelli visti in Juventus-Inter. Giulio. Visto che, fin tanto che si sanzionano le società di calcio, non si fa altro che dare ai tifosi la possibilità di ricattare i presidenti per avere biglietti omaggio in cambio di comportamenti civili, non basterebbe, almeno nel calcio, applicare la certezza della pena, penalizzando in qualche punto la squadra? Forse una penalizzazione di questo tipo potrebbe interessare a qualche stupido, ben più che 40 o 50 mila euro di multa, che comunque non escono dalle sue tasche. Giuseppe, Modena. Ho ascoltato la trasmissione tutta dedicata alla querelle Balotelli squalifica della Juve. Sono due giorni che non si sente altro nelle trasmissioni radiotelevisive sul calcio. Non che sia da dimenticare, ma non si esagera forse nel dare importanza alla faccenda? Ma non è la prima volta che un giocatore di colore viene bersagliato dal pubblico e non sarà certo l'ultima. Io seguo più da vicino il basket del calcio e sappiamo bene che nel basket i giocatori neri ci sono sempre stati, anzi ora sono, grazie alle leggi Bosman e successive, più numerosi dei giocatori italiani. Il pubblico del basket non è più educato di quello del calcio, ma i cori tipo quelli di domenica si sentono ormai solo quando c'è provocazione da parte dei giocatori verso il pubblico. Esempio, tiro libero, fischi del pubblico. Il giocatore di colore segna e rivolge il dito medio verso la curva. Segue un immediato coro, negro di. Anche Carlton Myers, italiano ma nero, fu bersagliato da cori identici a quelli che hanno fatto scalpore domenica sera. Ma non c'è mai stato alcun piagnisteo come stavolta, né squalifiche o partite a porte chiuse, semmai multe alle società. Quindi, ferma restando la condanna dell'episodio, non facciamone una questione così importante. Cerchiamo di prevenire il tutto educando i ragazzi al rispetto, che è la vera questione dei propri simili, indipendentemente dal colore della pelle e, nel caso specifico, anche di quei ragazzi che, come Balotelli, non sono stinchi di santo, ma maleducati che si credono impunibili solo perché giocano al calcio in Serie A. Alberto Varese. Gentile redazione, da molto tempo ormai Trenitalia pubblicizza qualità, innovazione e sicurezza. Guardando le pubblicità televisive a casa propria, chiunque potrebbe dire «Ma che bello, quasi quasi provo a spostarmi in treno». E così, domenica scorsa, sono partito da Milano per recarmi in visita di amici residenti a Bolzano. Ho scelto il treno, mezzo che non uso da molti anni, a dire la verità, anche per la curiosità di verificare la qualità del servizio. Registratomi sul sito, ho prenotato il viaggio via internet. All'andata sono salito su di un Eurostar in seconda classe. Carrozze pulite, confortevoli, passaggio di personale di servizio e agenti Polfer, nulla da dire. Viaggio rilassante, bel panorama. Arrivo addirittura con discreto anticipo. Ho pensato, ma allora è vero. Per il viaggio di ritorno, che si preannunciava di sera e più lungo, ho prenotato in prima classe per maggior sicurezza. Fino a Verona ero su carrozze Eurostar. Poltrone più ampie, sì, ma assolutamente meno pulite, specialmente sui poggiatesta con molta polvere e macchie vistose. Ho deciso di guardare i bagni. Dispenser privi di sapone, mancanza di carta igienica. Caspita, che prima classe. Sceso a Verona, in attesa della coincidenza per Milano, ho fatto due passi in stazione. Erano circa le 21 e l'impressione è stata decisamente negativa, sia per la struttura alquanto squallida, sia per il viavai di personaggi poco rassicuranti, senza che notassi presenza di personale ferroviario né di alcun agente delle forze dell'ordine. Ma il bello doveva ancora arrivare sull'interregionale. Messaggi vocali che ricordavano le sanzioni per i passeggeri privi di biglietto e l'intensificazione dei controlli. Ma dove? Fosse passato un controllore o un agente? Come se non bastasse lungo il tragitto, in una carrozza semideserta si sono seduti nei posti retrostanti il mio, due ragazzotti, in memoria di una doccia, che in lingua albanese farneticavano ad alta voce e successivamente al telefonino, minacciando una loro connazionale dopo aver insultato e minacciato l'italiano che probabilmente aveva risposto a quel numero. Infastidito, ho scelto di alzarmi discretamente e sedermi più in là. Per tutta risposta i due si sono spavaldamente riseduti dietro di me. Quasi arrivati a Milano, mi sono recato vicino all'uscita, dove era anche una ragazza. I due mi hanno puntualmente seguito, sempre sbraitando al telefonino. Ho fatto finta di nulla, ma la ragazza era impietrita e ho cercato di rassicurarla con uno sguardo. In fondo eravamo arrivati. Scesi dal treno, sul viso della ragazza è ricomparso un certo colorito. E tra me e me ho riconsiderato il piacere di viaggiare in auto. Complimenti a Trenitalia e buona fortuna a tutti i suoi clienti. Gian. Egregio direttore, mi aiuti lei a risolvere questo mio dubbio amletico? Sono un lavoratore dipendente a basso reddito, ecologista ambientalista e, come se non bastasse, sono tendenzialmente portato ad essere solidale con chi sta peggio di me. Beh, ho tutti i requisiti necessari per non avere esitazioni su chi puntare al momento del voto. Il centro-sinistra, giusto? Ma poi, già, c'è un poi. Come le dicevo, poi sento parlare gli esponenti della mia possibile parte politica e mi cascano le braccia. Come si può essere tanto ciechi di fronte a un problema come quello dell'immigrazione? Ho sentito Marrazzo e altri dire che l'immigrazione è inevitabile, che non si può assolutamente arrestare, ma che va solo gestita nel migliore dei modi. È come se mi si dicesse che non posso evitare il fumo passivo del mio collega di lavoro, ma che poi, tanto e comunque, troveremo il modo per curare il tumore. Ma sono pazzi! Si deve assolutamente tentare di arginare il fenomeno, con tutti i mezzi leciti possibili. Non ci si può indignare come fanno questi politici se poi si vengono a creare tensioni e fenomeni di intolleranza tra gli italiani e questi disperati, che vagano come randagi nelle periferie e nelle città. Ho sentito africani affermare che stavano meglio nella loro povera terra. Viste le condizioni di vita documentate, credo abbiano purtroppo ragione. Non c'è oggettivamente spazio e benessere per tutti in questo momento. Non c'è. E basta. Non serve essere scienziati per accorgersene. Arriveranno momenti migliori. Se si capisce questo, si capiscono anche tutti gli altri problemi che ne derivano. Ah, dimenticavo. Ne consegue che alle prossime elezioni, inesorabilmente, voterò dall'altra parte. Sto forse sbagliando tutto? Lettera firmata. Gentile lettore di sinistra, lei si dimostra deluso per le scelte della sua parte politica sul tema dell'immigrazione, un tema su cui lei vorrebbe una politica di chiusura, perché non ci sarebbe spazio e benessere per tutti in questo momento. Al di là delle valutazioni politiche e soprattutto elettorali, è forse opportuno guardare al tema dell'immigrazione con l'ottica della concretezza e insieme dell'umanità, senza dimenticare quindi due elementi. La grandissima parte degli immigrati è in Italia per lavorare e perché ha un posto di lavoro e quindi produce ricchezza, paga le tasse e i contributi previdenziali e quindi aiuta in maniera sostanziale l'economia del paese. Da un profilo sociale, l'Italia ha ancora una percentuale di stranieri inferiore a quella di altri paesi europei. Ma si deve sottolineare che il numero di stranieri è aumentato negli ultimi anni molto più velocemente che altrove. Vi sono tuttavia molti esempi di integrazione positiva. E allora l'immigrazione è uno di quei temi su cui non è tanto difficile quanto sbagliato prendere scelte drastiche e posizioni ultimative. L'immigrazione va governata, sottoposta a regole e limiti, ma nel corretto equilibrio tra le opportunità sociali e le esigenze umanitarie. E l'equilibrio non è cerchiobottismo o evitare di prendere posizioni. L'equilibrio è il sano buonsenso dell'umanità. Il 25 aprile, così come è orchestrato, mi fa pensare che forse si potrebbe celebrare anche la resistenza vittoriosa dei romani sui cartaginesi. Non avrebbe più senso usare le celebrazioni del 25 aprile per discutere, denunciandole, tutte le forme di sopraffazione della libertà degli individui in giro per il mondo? Il Darfur, Cuba, la Cecenia, l'islamismo radicale e violento. Casi di discussione da mettere sul tavolo ne abbiamo a bizzeffe, purtroppo, senza doverci annoiare con le res gestas dei soldati dell'ANPI e della retorica della CGIL. Quando questo paese inizierà a proiettarsi nel futuro invece di continuare a crogiolarsi nel passato? Roberto, Milano. Avvisate Piero Sansonetti che il fascismo non esiste più dal dopoguerra e gli ultimi fascisti sono morti da molti anni. La realtà è che i comunisti staliniani sono ancora vivi e vegeti e il Parlamento e i giornali ne sono pieni. Purtroppo questo impedisce all'Italia di avere una vera ed effettiva opposizione, un'opposizione costruttiva e alternativa. Abbiamo da entrambe le parti chi fa gli interessi dei poteri economici, l'attuale maggioranza principalmente con piccoli e medi imprenditori, all'opposizione cooperative e grandi industrie che si sono strutturate per prosciugare le entrate dello Stato a loro esclusivo beneficio. Stefano. Sono un imprenditore di Pescara. Quello che sta succedendo nella mia regione è sotto gli occhi di tutti. Nel bel mezzo di una crisi economica mondiale impietosa che sta mettendo in difficoltà anche le economie più floride, il mio Abruzzo è stato colpito al suo cuore più antico, la bella città medioevale dell'Aquila. L'effetto terribile di questo terremoto ha sconvolto vite, affetti e cose, ribaltando il loro futuro. Ma finito l'effetto mediatico che ha descritto l'Abruzzo come terra di terremoti e di devastazioni, e terminata l'ondata emozionale che questo ha prodotto, rischiamo di subire una crisi ben peggiore, con il tracollo della nostra economia regionale già messa a dura prova dai noti fatti di malgoverno. Mentre scrivo queste righe, centinaia di mail stanno arrivando agli alberghi della costa, disdettando precedenti prenotazioni e mettendo in crisi il nostro settore turistico e artigianale. Bisognerebbe lanciare un appello ad esserci vicini non da lontano, ma venendo nella nostra magnifica terra. Ci sono molte zone che non sono state colpite, e il miglior modo per aiutare i nostri sfortunati corregionali è aiutare l'economia della nostra sventurata regione vicina al collasso. Questo permetterà a molti aquilani di ricrearsi una vita e un lavoro. Spero vogliate trasmettere questo appello. Un cittadino abruzzese. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.